l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia, questa è l'altra Europa, come sempre in diretta per raccontare l'Europa nelle sue mille sfumature, nelle sue mille sfaccettature, attualità economica e politica che Radio 24 racconta giorno per giorno. Noi il sabato cerchiamo anche altri punti di vista. Euronetplus.eu è il portale che racconta tutto il lavoro del nostro network, tante voci, tante radio straniere, per un percorso comune. Le coordinate invece per trovarci sulle nostre piazze virtuali, Euronet Plus R24, oppure i miei account personali, Federico Taddia su Twitter e su Facebook, con tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare, aggiornati minuto per minuto. Entriamo nel vivo, entriamo parlando proprio dell'Europa, dell'Europa di oggi, dell'Europa che ci aspettiamo domani. In questi tempi è necessario essere forti, è necessario essere solidi, è necessario avere visioni concreti, sogni, ma anche gli strumenti per realizzare questi sogni. Italia in Europa, Europa in Italia, è il titolo dell'incontro che è stato organizzato ieri dalla rappresentanza in Italia della Commissione Europea, una sorta di sunto finale, di punto d'arrivo ma anche di punto di partenza dopo un lungo tour, 17 tappe nazionali, 13 grandi domande che sono state rivolte ai cittadini, oltre 70 dibattiti per fotografare questo stretto rapporto tra l'Italia di oggi e l'Europa di domani e l'Italia di domani e l'Europa di oggi, insomma questo forte intreccio, tante domande, tante risposte, tante richieste, tante istanze che gli italiani chiedono verso l'Europa in questo rapporto, no? Tra l'europeismo e il disincanto, tra la voglia d'Europa e l'illusione a volte di questa Europa alla quale ci si rivolge, ma poi non arrivano le risposte, le risposte non sono chiare o mancano i canali di comunicazione diretti. Insomma, tanta strada da fare, anche perché l'Europa tra poco più di 2 settimane sarà protagonista grazie alla guida del semestre europeo. Di tutto questo ne parliamo con chi era presente ieri all'incontro e con chi ha una fortissima responsabilità in questo rapporto, in questo matrimonio tra Italia e Europa. Diamo il benvenuto all'onorevole Sandro Gozi, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega alle politiche europee. Buongiorno Gozi, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno a voi. Cos'è per lei l'Europa? Che suggestioni le rilanciano questa parola? Per me l'Europa vuol dire opportunità e vuol dire futuro. L'Europa è un moltiplicatore di opportunità, è un moltiplicatore anche di influenza per stati nazionali che da soli non riescono più a fare fronte alle grandi sfide globali, ai grandi giganti e politici economici nel mondo, quindi vuol dire speranza, vuol dire opportunità. Speranza e opportunità che vanno colte, bisogna essere nella condizione di poterle cogliere ognuno di noi come cittadino e come Stato. E spesso, quasi sempre, all'Altra Europa parliamo di quelle che sono le possibilità e le opportunità che l'Europa offre. Gli Europe Direct sono una presenza concreta sul territorio dell'Europa e l'incontro di ieri parlava anche degli Europe Direct proprio come la finestra aperta sull'Europa. Quali sono le istanze che ieri ha raccolto, che più l'hanno colpita delle richieste che arrivano dai cittadini? Ma innanzitutto mi lasci dire che io sono molto soddisfatto degli Europe Direct, perché quando lavoravo a Bruxelles li creai assieme all'allora commissario Vittorino. Quindi ci ha creduto fin da subito. Ci ho creduto fin da subito e ieri era questo un motivo in più per me, oltre che come membro del governo responsabile per gli affari e per le politiche europee, era un motivo in più di essere presente al convegno, e devo dire che gli Europe Direct italiani stanno lavorando molto bene e ieri hanno dato un quadro in cui che mi sembra molto aderente alla realtà del rapporto tra italiani e l'Europa, un rapporto che è diversificato, che è diverso a seconda della regione, a seconda del luogo da cui si guarda l'Europa, come è molto diversa l'Italia. è così lontana l'Europa, Gozzi, nel senso che lei conosce bene sia i cittadini, sia gli italiani, che l'europeo, sia il palazzo, no? Perché c'è comunque a volte questo scollamento tra quella che è la realtà e quello che è il palazzo. Quali sono le strategie per avvicinare queste due dimensioni? Guarda, ci sono due aspetti. Innanzitutto, l'Europa è molto più presente nel nostro quotidiano di quanto noi ne siamo consapevoli. E infatti fare emergere la consapevolezza di quanto già siamo comunità di europei credo che sia uno dei compiti più importanti e più difficili che la politica, ma anche la stampa, i media devono svolgere, perché noi già abbiamo tanti punti comuni che ci legano come europei, e l'Europa già nel nostro quotidiano, dalla sicurezza alimentare alle norme in materia di ambiente, dalla mobilità per quanto riguarda gli studenti, alle norme di tutela dei consumatori, tutto questo è al 90% Europa, 90% Europa, ma noi non ne siamo consapevoli. Come non siamo consapevoli di quanto a livello di preoccupazione, di speranze, di gusti, di gusti musicali, di modi di vita, gli europei siano tra loro molto più simili, molto più comunità di quanto si rendano conto. Questo è il primo punto, un punto difficile che va affrontato come società, politica, media, società civile, scuola soprattutto, la scuola ha un ruolo fondamentale. Poi c'è un'Europa delle istituzioni che in questi anni si è drammaticamente allontanata dai cittadini. Perché? Perché ha avuto un approccio troppo rigoroso, troppo burocratico, troppo poco sensibile alle nuove esigenze e anche ai drammi sociali che sono stati provocati dalla crisi finanziaria, che è diventata economica, che è diventata sociale, che è diventata anche politica in tanti stati. Cioè l'Europa che si è allontanata è paradossalmente l'Europa che non c'è, cioè è quell'Europa che non è stata presente laddove i cittadini se l'aspettavano e continuano ad aspettarselo, come anche il lavoro che abbiamo discusso ieri degli Europe Direct hanno dimostrato. Gli cittadini si aspettano un'Europa che sia attiva nelle politiche per la crescita, si aspetta un'Europa che lavori, si impegni per l'occupazione giovanile, si impegni per una vera politica dell'immigrazione, si impegni per una politica forte del cambiamento climatico. In questi anni questa Europa i cittadini non l'hanno trovata e quindi l'hanno sentita ovviamente, giustamente, molto lontana. Il 1 luglio l'Italia assumerà per 6 mesi la presidenza del Consiglio dell'Unione Europea. Onorevole, siamo pronti? Siamo molto pronti a un lavoro molto difficile. Siamo molto pronti, abbiamo già definito come governi in maniera molto collegiale il programma. Adesso il Presidente del Consiglio ha più di 2 settimane per lavorarci lui stesso e abbiamo lavorato alla luce delle sue indicazioni, ma il tempo di lavorare per appunto affinare il programma, per inserire nuove priorità. Quindi se pensiamo che la nostra data è il 2 luglio in cui il Presidente del Consiglio Matteo Renzi deve presentare il programma al Parlamento Europeo, siamo decisamente pronti. Siamo pronti e siamo determinati, e la determinazione è necessaria perché il lavoro che abbiamo è molto difficile. Per noi questo semestre non sono semplici 6 mesi che dovranno passare, in cui dovremo passare più tempo in Europa che in Italia. Questo semestre è l'inizio di 5 anni di legislatura europea in cui dobbiamo veramente cambiare l'Europa, in cui dobbiamo dare una nuova forma all'Europa e in cui dobbiamo creare e sviluppare quelle politiche che sono mancate e che invece sono fondamentali per il benessere dei cittadini e anche per lo sviluppo comune europeo. Grazie davvero all'onorevole Sandro Gozzi, buon lavoro, in bocca al lupo per i prossimi mesi, che saranno tosti, ma anche molto colorati, quindi questo insomma credo sia davvero stimolante. Buona giornata. Sì, grazie, buona giornata a voi. Adesso ci fermiamo, un Europosti, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua, con l'altra Europa. Europost-it. L'architettura contemporanea europea alla Biennale di Venezia. I finalisti degli ultimi 25 anni del Premio dell'Unione Europea per l'Architettura Contemporanea, Premio Mies van der Rohe, saranno esposti alla Biennale di Venezia. La mostra, intitolata Made in Europe, ha aperto le porte il 6 giugno e presenta 150 modelli dei progetti vincitori degli ultimi 25 anni del Premio dell'Unione Europea per l'Architettura Contemporanea, il Premio Mies van der Rohe. La mostra è ospitata dal Palazzo Michiel e resterà aperta fino al 4 agosto. è organizzata lungo linee tematiche e un percorso cronologico attraverso la storia europea che mette in luce i legami tra l'architettura e gli sviluppi politici, scientifici e culturali. La mostra è stata organizzata dagli studenti della Scuola di Architettura di Barcellona. Per saperne di più, andate sul sito della Biennale di Venezia, labiennale.org. L'altra Europa. Durante i mondiali di calcio, il rischio di sfruttamento sessuale di minori può aumentare. Lo sfruttamento sessuale è un reato che prevede la reclusione. Se vai in Brasile e assisti a situazioni di sfruttamento, comportati da tifoso responsabile. Non voltarti dall'altra parte. Chiama il numero 100 e denuncia. Io sono Kaká e sostengo la campagna Non voltarti dall'altra parte. Non voltarti dall'altra parte, la campagna lanciata dalla Commissione Europea è stata presentata proprio ieri l'altro da Barroso, una campagna importante, una campagna che cavalca ovviamente l'attenzione legata ai mondiali di calcio, ma una campagna proprio che cerca anche di dare una risposta di un problema, di un rischio fortissimo che c'è legato ai mondiali ed è quello del turismo sessuale. Una campagna che ha vari progetti, una campagna che cerca di coinvolgere tutte le città in cui si giocano i mondiali di calcio. Di questa campagna ne parliamo con Jean-Louis Deville, capo dell'unità responsabile dello strumento per democrazia e diritti umani della Commissione Europea. Buongiorno e benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno. Buongiorno. Allora, una campagna che nasce non ieri, una campagna che nasce non solo per i mondiali di calcio, una campagna che cerca di usare come megafono i mondiali di calcio, perché da anni siete impegnati proprio per combattere quello che è lo sfruttamento sessuale. E di cosa si tratta? Come viene sviluppata questa campagna? Beh, come l'ha detto lei, è una campagna che non è stata iniziata proprio adesso, è un progetto che abbiamo sviluppato in una città del paese, del Brasile, da 2-3 anni e che abbiamo usato come progetto per ridimensionare, se posso dire così, con le autorità brasiliane a livello del paese, non solo per il mondiale ma anche per gli olimpici che arrivano dietro, sì. Cercare di rimanere, di mettere in testa a tutti che lo sfruttamento sessuale è un reato e sostenere dall'altro lato la lotta contro lo sfruttamento sessuale e far conoscere alle vittime essenzialmente i propri diritti permettere di segnalare casi di sfruttamento sessuale. Quindi il progetto all'inizio si svolgeva in una città, sì. È stato generalizzato in tutte le città del mondiale, non solo nelle città del mondiale ma anche nelle 250 città del Brasile. Il progetto finanziato dall'Unione Europea è nato da un'idea della rete ECIPAT, la quale si occupa di proteggere bambini e ragazzi dallo sfruttamento, prevede la creazione di seminari, di formazione, quindi a vari livelli si lavora, no? Si lavora direttamente con i ragazzi e con gli adolescenti e poi c'è tutto un lavoro di sensibilizzazione e di formazione. I sindaci delle città che organizzano i mondiali hanno firmato un documento comune proprio per aderire al progetto e si parla di 1800 azioni in tutto il mondo, quindi veramente un progetto ampio. Ci sono dei ritorni già? Questo progetto sta dando i risultati sperati? Ma sui mondiali proprio è ancora presto. Non posso certo. Dire ancora, però sul progetto stesso che abbiamo sviluppato prima, sì, ci sono stati tutelati più di 1120 bambini e adolescenti. Abbiamo sensibilizzato quindi più di 15.000 cittadini alle conseguenze drammatiche di uno sfruttamento, delle violenze sessuali, eccetera. Quindi il progetto per sé a livello micro è stato un successo, per quello che l'abbiamo espanso e l'abbiamo portato a livello generale, diciamo, nazionale. Tante ragazzine, anche tante adolescenti con volto coinvolte, insomma, in questo progetto dove si parte dal calcio per arrivare ad altro. Tra il 2007 e il 2013 la Commissione Europea ha erogato al Brasile fondi per 61 milioni di euro. Questa è l'Europa che non ti aspetti, anche, no? Perché uno pensa alla Commissione Europea, pensa agli affari interni, pensa ai 28 stati membri. Invece sì, c'è la forza e la volontà di andare oltre, perché comunque i problemi partono da lontano e non si può far finta di non vedere. Esatto, cioè, abbiamo lavorato sui diritti umani, questo è il progetto qui, e questi progetti che facciamo adesso nell'ambito del mondiale sono dei progetti diritti umani, diciamo, però c'è anche una parte commercio, sviluppo del commercio, c'è una parte sviluppo economico e sociale, ambientale, abbiamo vari progetti, abbiamo assi di cooperazione con le autorità brasiliane e continueremo nel futuro, quindi è la parte esterna dell'azione dell'Unione che si vede tra, sì, con questi mezzi che usiamo col Brasile ma anche con altri paesi del pianeta. Certo, www.ecipat.it per avere informazioni sulla rete, oppure ec.europa.io per tutte le informazioni su questa importante campagna. Grazie davvero, Will, buon lavoro. Grazie, buona giornata a tutti. Europost-it. Borse di studio del Direttorato Generale Interpretazione. Ogni anno la Direzione Generale Interpretazione mette a disposizione alcune borse di studio per studenti di tutte le discipline che siano stati accettati in un corso di formazione post laurea a tempo pieno in interpretazione e conferenze offerto da una università riconosciuta o da un istituto a livello universitario e che, se portato a termine con successo, dia una qualifica che certifichi la capacità di lavorare come interprete professionale consecutivo o simultaneo. La borsa permette di pagarsi gli studi ed ammonta a più di 2.000 euro. Per fare richiesta bisogna essere cittadini dell'Unione, avere almeno un diploma universitario e conoscere due lingue. La scadenza per fare domanda è il 16 settembre. Trovate informazioni e bando su ec.europa.eu/dgs/scic nella sezione Borse di studio. Mes origines sont en panique. J'ai fouillé dans toutes les poches du monde, y'a que du trafic. Pas facile, mon cœur a suivi sa logique. Il faut se mélanger dans la mixité, y'a rien de tragique. Pas facile, dans la vie y'a tout de pratique. Moi j'dis que rien n'est magique, et puis le racisme fatigue. Pas facile, de freine à fleurir mes registres. Même si t'es enfermé, que tu te sens seul, dis-toi que t'existes. C'est le racisme de la brise et de la prise. Bise d'une société aux prises, d'une guerre en guise de crise, synonyme de paix. Vendu, la life me fait marcher, elle puis des pieds. Si il rapper SFU insieme a Lilian Thuram, un rap contro il razzismo, perché si riparte da lì, si riparte dallo sport come strumento educativo, come strumento di integrazione, come strumento di socializzazione, ma anche come strumento di lavoro, di nuove opportunità. Di tutto questo ne parliamo, perché? Perché domani si conclude un progetto cominciato il 7 giugno a Palermo, un corso di formazione Sport Plus, Looking Up New Goals, nuovi obiettivi, nuovi goal, progetto finanziato col supporto dalla Commissione Europea nell'ambito del programma Gioventù in Azione, organizzato dal CESI, e con noi c'è proprio Giuseppe Lafarina, che è Project Manager del CESI, una ONG italiana con sede a Palermo, capofila di questo progetto che ha visto coinvolti oltre 40 operatori ed educatori provenienti da Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Grecia, Lettonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, insomma una sorta di europei durante i mondiali. Ciao Giuseppe, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno a tutti, buongiorno. Cosa vuol dire? Quali sono questi nuovi goal che lo sport può garantire? Ah. Quali sono le nuove opzioni, le nuove possibilità che avete toccate e sfiorate in questi giorni? Sì, lo sport come strumento appunto di inclusione sociale. In questi giorni abbiamo sviluppato parole chiavi come appunto Europa, integrazione europea, inclusione sociale, esclusione sociale, lo sport come appunto strumento di integrazione. Mm-hmm. Integrazione, sì. Come sempre, questi progetti di formazione sono un'ottima occasione per approfondire nuove nozioni, ovviamente, ma anche come confronto. Eravate tante teste, tante esperienze da tutta Europa. Quali sono i fili comuni che avete trovato? Ci sono affinità o ci sono buone pratiche che avete analizzato e che possono essere replicabili anche in altre realtà, in altre nazioni? Sì, noi abbiamo analizzato nel caso specifico una buona pratica locale, quella di Mediterranea Antirazzista, che è un evento che si tiene da 7 anni a Palermo e che prevede appunto lo sport come strumento appunto di inclusione sociale e il recupero anche di spazi pubblici. E abbiamo appunto fatto anche una visita agli organizzatori. Oggi andremo a partecipare ai loro tornei. Sì. E i ragazzi si sono appunto confrontati sulle loro esperienze, perché vengono appunto da diversi paesi e hanno raccontato la propria esperienza e soprattutto hanno chiesto ed erano molto curiosi su questa realtà locale. Proprio perché l'obiettivo è acquisire nuove competenze per poi sviluppare anche queste buone pratiche a livello locale nei propri paesi. Giuseppe, so che avete toccato anche il tema soldi, i nuovi finanziamenti riguardanti lo sport previsto dal programma Erasmus Plus. Ci sono molte opportunità? Sì, il nuovo programma Erasmus Plus, che racchiude una serie di precedenti programmi europei, prevede nel caso specifico un'azione sullo sport, che prima non era previsto da questi programmi europei e che nel nuovo settennato 2014-2020 prevede un'azione specifica. Sì. Che mira appunto soprattutto a supportare organizzazioni, piccole organizzazioni che lavorano nel campo sociale e nel campo dello sport, ad affrontare una serie diciamo di tematiche quali il razzismo, la discriminazione e poi lo sviluppo anche naturalmente di progetti a livello sia locale ma soprattutto appunto europeo, coinvolgendo diversi attori e diverse figure professionali che possono essere sia insegnanti, sia educatori sociali, sia anche gli stessi movimenti di supporter, diciamo così, a livello locale delle varie realtà sportive. Grazie davvero a Giuseppe Laffarina. Cesie.org il sito per conoscere le attività dell'organizzazione, giusto? È.org, ho detto sì, bene? Sì, perfetto, okay. Perfetto. Oppure mediterraneoantirazzista.org per conoscere l'intero programma dell'evento, link che abbiamo già pubblicato sulle nostre pagine, sia in Twitter che in Facebook. Grazie davvero e buon lavoro. Grazie mille anche a voi. Adesso un Europost-it, la pubblicità poi ancora qua con l'altra Europa. Europost-it. Stage alla European Medicines Agency. L'Agenzia Europea per i Medicinali, European Medicines Agency, è l'agenzia comunitaria dell'Unione Europea per la valutazione dei medicinali. L'agenzia offre a giovani laureati l'opportunità di svolgere stage di durata tra i 6 e i 9 mesi presso la sua sede di Londra. Gli stage avranno inizio a ottobre 2014. Lo stage prevede uno stipendio netto mensile di 1.350 sterline e il rimborso delle spese di viaggio. Per partecipare occorre, oltre alla conoscenza dell'inglese, una laurea in farmacia, chimica, medicina, scienze, giurisprudenza con interesse nella regolamentazione del settore farmaceutico, oppure nella comunicazione o nelle risorse umane e contabilità. Per presentare la domanda c'è tempo fino al 15 giugno. Per saperne di più, consultate la pagina del sito di European Medicines Agency dedicata allo stage. ema.europa.eu nella sezione traineeship. L'altra Europa. Ancora buona il sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'altra Europa. Aeronet Plus R24 oppure Federico Taddia, le nostre coordinate su Twitter e su Facebook. Quello che che state ascoltando è il trailer, un trailer di un documentario, perché tante volte abbiamo detto che questa Europa delle possibilità, delle opportunità, è soprattutto l'Europa delle persone, l'Europa delle storie, di storie anche non a lieto fine. Il documentario che state ascoltando si intitola Terra di Transito ed è stato realizzato da Paolo Martino, documentarista e regista, che è qua con noi. Ciao Paolo, benvenuto all'Altra Europa. Grazie, buongiorno a voi. Che cos'è Terra di Transito? Beh, la terra di transito di cui parlate è ovviamente l'Italia, il nostro paese, che come sappiamo è investito da anni ormai da flussi migratori. E questi flussi migratori prevedono anche un'altissima percentuale di migranti forzati, cioè di rifugiati, persone appunto costrette a fuggire dai loro paesi di provenienza. Quello che non sappiamo rispetto a questi flussi è che molte persone non vogliono assolutamente fermarsi nel nostro paese, vivono appunto l'Italia come una tappa verso altre destinazioni. Mm-hmm. Tu hai raccontato la storia di Rahel, originario dell'Iraq, ha vissuto in Siria facendo il musicista e il commerciante, poi è scappato dal regime, si è fatto un anno in Grecia, adesso è in Italia, bloccato, lui vorrebbe raggiungere la Svezia dove c'è la sua famiglia. Tu hai raccontato questa storia e Rahel è qua con noi. Ciao Rahel, benvenuta all'Altra Europa. Ciao, buongiorno. Che cosa rappresenta per te l'Europa? L'Europa prima rappresentava un posto dove c'è i diritti assoluti, mm-hmm, nella terra. Quindi per ma te... adesso non di più. Ti senti in gabbia? Mi sento bloccato per non avere un documento o per un regolamento che blocca le persone in Italia, ovviamente il regolamento di Dublino. Certo. E Paolo, tu attraverso questa storia hai voluto raccontare appunto l'Italia come terra di transito, ma anche l'Europa che diventa calamita, ma in questo caso diventa anche gabbia. E al di là dell'Italia come terra di passaggio, qual è l'Europa che avete voluto, perché poi l'avete scritto insieme questo documentario, avete voluto tratteggiare? Ma sai, l'Europa resta comunque una terra di fortissima attrazione per molte regioni del pianeta, per cui chiaramente questo aspetto emerge dal nostro lavoro. Noi ci concentriamo sull'iniquità di questo regolamento di Dublino, che come sappiamo da più di 10 anni ormai obbliga i rifugiati, quindi persone appunto in fuga da guerre e da persecuzioni, a fermarsi nel primo paese d'ingresso all'interno dei confini dell'Unione Europea. È chiaro che questo fenomeno riguarda soprattutto i paesi di confine come l'Italia, la Grecia e la Spagna, per cui in generale è chiaro che il giudizio sull'Europa, se parliamo di questo fenomeno qui, non può che essere negativo. Poi l'Italia chiaramente ne paga le conseguenze in quanto è esposta appunto più di altri paesi a questa problematica. Quello che abbiamo cercato di fare noi è di tratteggiare un volto inedito forse del nostro paese, appunto di questa terra di transito, che continua a ritenersi, come dire, invasa, laddove non si valuta invece l'aspetto contrario, appunto il fatto che moltissimi stranieri arrivati in Italia vorrebbero lasciarlo, il nostro paese. Rael, com'è stata l'esperienza di collaborare alla regia della propria storia? Allora, io e Paolo abbiamo già fatto molti lavori insieme. Ok. Perché questo per noi è un modo di portare una causa in cui crediamo, entrambi noi. Cioè la libertà di movimento per tutti i popoli, tutte le persone. E lavorare con Paolo, che non mi piace chiamarlo lavorare, ma era un'esperienza molto importante per me anche. Perché non lavoravo con una regia, diciamo, lavoravo con una persona. Cioè abbiamo quasi la stessa età io e Paolo. Mm-hmm. Quindi era molto interessante per me e lavorare con un italiano. Paolo, quando sarà possibile vedere il documentario? Abbiamo un'anteprima nazionale a brevissimo, il 20 giugno saremo al Maxi di Roma, alle 21 ci sarà questa visione appunto in occasione proprio della giornata mondiale del rifugiato che si tiene ogni anno il 20 giugno e poi abbiamo insomma in programmazione molti festival per l'estate e poi una distribuzione nelle sale in autunno. Ottimo, bocca al lupo davvero, grazie a Paolo Martino. Rael, so che che sei impegnato in questi giorni con gli esami di terza media, vero? Sì, è vero, è vero. Infatti devo studiare. cercherò di continuare a studiare e informare le persone di quello che succede sui confini dell'Europa e anche a violare quei confini insieme a Paolo. Sì, sì, è bella, bella questa immagine che hai dato. In bocca al lupo per i tuoi esami. Tra l'altro colgo l'occasione per ricordare il nostro appuntamento di martedì sera, martedì 17, con la notte prima degli esami. Parliamo di altri esami, sono quelli della maturità, 3 ore di speciale dalle 21 alle 24, con tanti ricordi, tanti racconti e le vostre testimonianze. Se volete raccontarci il vostro esame, se l'avete dato qualche anno fa o se invece siete dei maturandi, potete raccontarci in diretta quelle che sono le ansie, le paure, le speranze, appunto nelle ultime ore prima della prova scritta. L'appuntamento quindi a martedì sera dalle 21 alle 24 con lo speciale la notte prima degli esami. Europostit. Concorso per blogger. Come pensi che debba essere la comunicazione digitale dell'Unione Europea con i cittadini? Condividi le tue idee in una competizione per blogger. Chi ha avuto l'idea migliore verrà invitato a parlare all'Europcom 2014, la conferenza europea sulla comunicazione pubblica. Per partecipare, l'articolo deve essere in inglese e lungo non più di 500 parole. A selezionare l'articolo vincitore sarà il Digital Team della Commissione Europea. Per saperne di più e partecipare, scrivete a com-social-media-team@ec.europa.eu. I know the runners want to tell you there ain't no cowboy in my hair, so now he's buried by the daisy, so I could stay the tallest man in your eyes, babe. I sense a spy up in the chimney. Giardiniere, eccola l'Europa che non ti aspetti, l'Europa che ti sorprende, l'Europa che stanzia fondi per progetti che tu magari non conosci perché insomma sei incompetente, quindi ti fa anche quasi sorridere o rimani incuriosito dalla cosa, poi scopri che dietro ci sono tecnologie, ci sono ricerche, ci sono soprattutto visioni e prospettive. Visioni e prospettive che possono anche arrivare dalle piante, da utilizzare le piante come sensori ambientali. Diamo il benvenuto ad Andrea Vitaletti, che è coordinatore del progetto e responsabile della tecnologia presso OLAB, la società che ha creato il progetto in collaborazione con l'Università La Sapienza. Un lancio stampa della Commissione Europea ha detto: ecco un progetto dove le piante parlano. Ciao Andrea, benvenuto all'Altra Europa. Ciao, buongiorno. Allora, tu coordini questo progetto europeo che si chiama? Il progetto si chiama PLEASD. Ed è l'acronimo di Plants Employed as Sensing Devices, e quindi è un po' la sintesi del progetto. Ma e cercate la voce delle piante? L'idea è esattamente questa. Beh, la voce, diciamo che il rischio è sempre quello di rendere umani dei comportamenti che non lo sono, però diciamo l'idea è che le piante, come qualunque altro organismo vivente, reagisce a stimoli esterni generando dei segnali elettrici. Ora noi, attraverso la tecnologia che stiamo sviluppando, vogliamo prelevare questi segnali ed essere in grado di analizzarli e di classificarli in modo di capire quali sono stati gli stimoli ai quali le piante sono state soggette. Se saremo in grado di realizzare questa visione, chiaramente le piante potranno essere usate come dei dispositivi di sensing dell'ambiente, quindi ci potranno dire se stanno bene, se stanno male, se sono soggette ad inquinanti e così via. Questa è un po' la sintesi del progetto. L'altra Europa. Eccoci qua ancora all'Altra Europa con Andrea Vitaletti per parlare di questo progetto finanziato in grossa parte dal 7° programma quadro di ricerca dell'Unione Europea nell'ambito dell'iniziativa Tecnologie Future ed Emergenti. Andrea, dove ci può portare la vostra ricerca? Poiché le piante sono intorno a noi ovunque, se fossimo in grado di capire questi segnali che generano quando sono soggette a stimoli, chiaramente potremmo avere un sistema che ci consentirebbe di avere una visione dell'ambiente su una scala che precedentemente era impossibile anche da immaginare. Cioè, immaginate che su ogni pianta potenzialmente in futuro ci siano questi piccoli dispositivi che prendono i segnali, li analizzano, li comprendono, li comunicano in modo da avere una visione su larga scala di quello che sta succedendo. Questo è l'obiettivo attendere, diciamo. Immediatamente, diciamo, sarà possibile realizzare dei dispositivi che ci consentiranno di migliorare, per esempio, applicazioni relative all'agricoltura di precisione, quindi al consumo di acqua nell'irrigazione. Sarà la pianta stessa a dirci quando avrà bisogno di essere innaffiata e quando no, piuttosto che l'uso di agenti chimici in agricoltura. Supponiamo che ci siano dei parassiti e la pianta stessa ci dirà la necessità di essere soggetta all'uso di antiparassitari o meno. Ci tengo però a precisare che questa è una visione a lungo termine. Certo. Attualmente siamo veramente nelle fasi, come si dice, early stage, preliminari. Un primo successo del progetto è quello di aver dimostrato chiaramente che questa visione, limitatamente a dei piccoli esperimenti, è una visione che è possibile. Uh-huh. Ma ci vorrà, insomma, parecchio tempo. Hanno coniato il termine cyberpiante, ti piace? Sì, mi piace perché in qualche modo rende chiaro un problema fondamentale che abbiamo nell'ambito del progetto. Mentre, diciamo, si parla molto di bio-inspired technologies, che significa guardare la natura e cercare di ispirarsi alla natura per tirare fuori delle nuove tecnologie. Qui andiamo leggermente oltre, in realtà noi stiamo, tra virgolette, cercando di usare la natura, cioè di usare le piante per dirci come stanno, in che condizioni si trovano. In questo senso, chiaramente il progetto è molto sfidante, perché immaginate, diciamo, un paragone che si può fare rispetto alla tecnologia di elettromiografia, no? Sono degli elettrodi che vengono messi nei muscoli per vedere la reazione elettrica dei muscoli quando noi ci muoviamo. Beh, è molto simile. L'idea è: noi mettiamo degli elettrodi nelle piante e vediamo la reazione elettrica delle piante. Il problema è che a una persona tu puoi chiedere: muovi il muscolo e vedere qual è la reazione, oppure muovi il muscolo più rapidamente o più lentamente. Chiaramente questo non è possibile chiederlo a una pianta, almeno noi non sappiamo farlo. E quindi questo lo rende estremamente più difficile. Grazie davvero, Andrea Vitaletti, complimenti a te e a tutto il tuo staff. Buon lavoro. Ciao, grazie. Europa unita, invece noi ora parleremo di divisioni. Eh sì, e lo facciamo andando dentro al Parlamentarium, il centro visite, il centro visitatore del Parlamento europeo, centro multimediale che non è solo sede della storia dell'Unione Europea, ma è anche uno spazio dove vengono ospitate alcune delle mostre più belle d'Europa. Beh, lunedì verrà inaugurata all'interno del Parlamentarium la mostra sulle relazioni finite, progetto ideato da una coppia croata qualche anno fa. E diamo il benvenuto a Olinka Vistica, che è proprio l'ideatrice di questo strano museo, il museo degli amori che finiscono. Ciao Olinka, ben ritrovata. Ciao, grazie. Credo che credo che tu sia proprio lì nei pressi del Parlamentarium, dove stai allestendo la mostra, vero? Dove sì, stiamo preparando la mostra per lunedì. Ma scusa, ma si parla di Unione Europea e voi proponete una mostra sulle rotture, sulle divisioni, sugli amori che finiscono, e sembra quasi un contrasto questa cosa. Sì, però non è voglio dire che il museo non è pessimista, non è sulle divisioni, però voglio dire che è un museo dell'amore, perché parla che vuole che è una persona umana. Certo. Amore, divisioni, tutto questo è un parte della vita. cosa raccoglie la vostra collezione? Cosa mettete in mostra? Non mettiamo noi, facciamo una collezione aperta a tutte le persone nel mondo che possono inviare un oggetto che simbolizza la loro relazione, però finita, e con questo scrivono anche una storia della loro relazione. Può essere una storia corta, lunga, triste, però anche umoristica. C'è una ricchezza delle relazioni internazionali. Mm-hmm. È un progetto che va avanti dal 2006, se non erro, e ha avuto un successo clamoroso in tutta Europa. Ovunque comunque andiate c'è attenzione per questo progetto, perché è bello, perché coinvolge ciascuno di noi. C'è un oggetto che secondo te meglio di altri rappresenta il vostro percorso, il vostro lavoro, la vostra idea di questa mostra? Ah, è difficile scegliere un solo oggetto. Quando abbiamo cominciato con noi, il primo oggetto nella collezione era un coniglio, non si dice? Coniglio? Rabbit. Sì, sì, coniglio, va benissimo, sì. Coniglio, però un giocattolo che rappresentava la nostra relazione, perché Dražen, l'altro ideatore, e io abbiamo fatto tanti viaggi insieme, e questo coniglio viaggiava con l'altro quando non potevamo viaggiare come coppia. Okay. Dopo il coniglio ha continuato a viaggiare con il museo, non solo in Europa, Asia, America, 7 anni questo museo è itinerante, e con ogni esposizione la collezione diventa più grande, più ricca. Mm-hmm. Allora, il Parlamentarium ospiterà l'esposizione fino a ottobre, se non erro, sì. www.europarla.europa.eu per avere tutte le informazioni. Brokenships.com invece è il sito che racconta il vostro progetto. Credo sia una bella emozione essere lì nel cuore d'Europa, vero? Sì, però dico che melancolia è una parte d'Europa, e penso che questa mostra c'è tanto interesse, perché una melancolia è quando perdiamo qualcosa che amiamo, è una cosa universale, una cosa che compartiamo tutti in Europa. Questa è bella, questa è la malinconia, certo, insomma, è vero, si cercano i punti in comune, no? Si cercano le contaminazioni. Possiamo comprenderci meglio, perché nel dolore siamo tutti uguali. È vero, grazie davvero Olinka Vistica, ideatrice di questo progetto. Ciao, in bocca al lupo, tutto pronto per l'inaugurazione di lunedì. Sì, ciao, sì, grazie. Sì, sì. E grazie a voi come sempre per essere stati in nostra compagnia, e grazie a tutta la squadra dell'Altra Europa, Ina Margherita che con me ha scritto la puntata, Guido Scotti oggi in assistenza dall'altra parte del vetro, insieme a Roberto Scaltritti alla parte tecnica. L'appuntamento è a sabato prossimo, e vi ricordo ancora invece martedì sera sarò in diretta dalle 21 alle 24 con lo speciale La Notte Prima degli Esami. Vi aspetto per prepararci insieme all'esame di Stato. Ancora ciao, ancora buon sabato da Federico Taddia. L'Altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.